viaggio in Italia. C'è un sacco di gente che da fuori Roma o dall'altri quartieri è venuto a comprare casa qui. Ma a me sa quanti mi domandano se c'è un appartamentino, una casetta, un qualcosa da pur di venire qui. E in questo quartiere ci sono infinità di artisti, cantanti, musicisti, scultori, pittori. Io faccio i lavori, faccio il tappezziere, vado per le case, no? Dopo essere stato per molti anni un luogo praticamente isolato alle porte della città, a partire da circa 15 anni fa il Pigneto ha iniziato a interessare chi, magari spinto dal caro prezzi delle case in centro a Roma, ha iniziato a muoversi verso le periferie. Nel 2011 dovrebbe essere completata la metropolitana C, che passerà proprio attraverso l'intero quartiere. Intanto dunque il Pigneto diventa di moda e solo nella via principale ci sono 4 agenzie immobiliari. Chi è che viene qui? Chi è che viene a cercare casa al Pigneto oggi? Giovani, ragazzi, giovani coppie, artisti di teatro, di cinema, professori universitari, le persone che frequentano, diciamo, San Lorenzo. Più o meno per la stessa tipologia di persone che frequentano San Lorenzo. Quindi il Pigneto diventa un'estensione di San Lorenzo? Praticamente sì, diventerà un'estensione di San Lorenzo. Un buon mercato praticamente. Ci sono molte compravendite, tanta richiesta. Offerta ultimamente un po' calata ultimamente. Però comunque, dato che la richiesta è tanta, i prezzi non accennano ad abbassarsi. Si sono... Mi diamo un ordine di idee, quanto vale un metro quadrato al Pigneto oggi? Dipende dalla tipologia, dai 30 ai 45, dipende dalla tipologia più richiesta, si va dai 5 ai 6.000, in alcuni casi anche qualcosina in più. Fino al 2001-2002 si sono fatti buoni affari. E quelli che c'erano? Persone, la vecchia guardia? La vecchia guardia rappresentata da persone che abitano nel quartiere da tantissimi anni, che sono legate al quartiere... che era un quartiere popolare, quindi i prezzi prima erano molto bassi, nessuno voleva venire al Pigneto. Sono trovato questi appartamenti che valgono molto, quindi adesso logicamente chi vuole, chi riesce a staccarsi dal Pigneto, vende e fa un buon affare, insomma. La vecchia guardia dunque vende e se ne va, i prezzi delle case crescono rapidamente, il quartiere diventa di moda, ma i primi che se ne lamentano sono proprio alcuni ragazzi che incontro nella via principale. Sì, io abito qua già da diversi anni, parecchio, ho cambiato diverse case ma tutte qua nel quartiere. C'è da dire che negli ultimi 2 anni il quartiere proprio si è trasformato, è diventato proprio un altro quartiere. Prima c'erano solo... pochi studenti, pochi artisti, più extracomunitari, adesso invece è proprio stata un'ondata. Secondo me è stato molto snaturato, i prezzi sono esteri, gli affitti sono proprio strozzinaggi veri e propri, sì. Perché ormai se ne approfitto. C'è tutta la controparte di un quartiere trendy, quindi c'è casino la sera, per chi abita, per i residenti è negativo, per chi ci viene la sera a bersi un bicchiere di birra è sicuramente piacevole. Io che abito qua, che c'ho casino sotto casa, i pischelli, i motorini, c'è il delirio tutti i giorni, non mi piace, però riconosco che per chi viene da fuori è sicuramente piacevole. Effetto moda, 6 locali in pochi metri. Fino a qualche anno fa ce n'era uno solamente, quello di Dario Santilli al 31 di Via del Pigneto. Se faccio l'imbroglione ti dico, se vorrei fare l'imbroglione ti direi non ho avuto naso, non avevo soldi a sufficienza per andare al centro, avevo 2 soldi, ho preso questo locale perché qui sono vissuto e qui mi piaceva, io abito qui, mi piaceva. Ma tu sei di questo quartiere? Sì, sei cresciuto? Sì, ci sono. E l'ho fatto per quello. Se avevo soldi me ne sarei andato al centro. E invece avevo questi pochi soldi, noi abbiamo lavorato 4 mesi qua dentro, il primo locale, perché questo è stato ristrutturato 2 anni fa, il primo locale l'abbiamo fatto io, il mio socio e mio fratello, senza mai uscire fino alle 10 di sera qua dentro, e abbiamo fatto tutto, dall'impianto elettrico, impianti idraulici e pavimenti che ho fatto io. Ha ancora un senso parlare di quartiere di borgata oppure è pura retorica da chiacchiere da giornalisti? Guarda, a faccia di adesso ed è un quartiere di borgata dove la gente, la cosa, si parla, c'è relazione, se i ragazzi arabi, ecco, vedi che vendono le cose lì, parlano tranquillamente con la gente, che vogliono bene, non, c'è nessun problema. La sera cambia totalmente, è un'altra cosa, è finto. La sera vengono questi finti fricchettoni che proprio mettono un vuoto fra loro e quello che è in questo fermento del quartiere. Cioè proprio prima gli anziani, quando vedevano gli studenti, ci parlavano, interagivano, gli portavano i dolcetti. Oggi non lo fanno più, oggi appena vedono uno studente ci hanno paura, si tirano indietro, per cui è cambiata un po' questa cosa qua. E non è che questi ultimi rischiano di avere il sopravvento? C'è questa cosa, se gli viene permesso c'è. E com'è che non glielo si permette? Perché di sicuro non sarai tu che sei un oste, un gestore della cara di Lina. Ma non c'ho nessuna intenzione. No, ma voglio dire, come si può fare? Ma secondo me facendo applicando le leggi. Ciao Franco, applicando le leggi, nel senso ci sono delle leggi contro l'alcolismo che puniscono i proprietari dei locali che danno l'alcol a chi è ubriaco, ci sono delle leggi che impediscono ad alcuni locali di vendere alcol perché non hanno le licenze, e qui ci sono dei locali che vendono alcol e non hanno le licenze, ci sono, bisogna fare queste cose qua. Questa sera diamo l'avvio a un evento molto importante. L'altro grande cambiamento in corso in questa periferia romana ha a che fare con il grande fenomeno dell'immigrazione, che qui ha portato progressivamente alcune comunità, in particolare asiatiche, oltre a quella senegalese, ad assumere numeri veramente importanti. A volte si discute, al mercato si registrano anche momenti di tensione tra i commercianti, nello stesso tempo però il quartiere si attrezza per favorire la conoscenza e i rapporti tra le diverse comunità. Siamo nella biblioteca Pigneto, nella sala videoconferenze, e fra i vari scaffali della biblioteca c'è da oggi lo scaffale di libri in lingua cinese, perché il Pigneto è il quartiere più ricco con una popolazione maggiore di cinesi. Alice Dente è stata responsabile della selezione dei libri. Ora, che cosa sta leggendo innanzitutto? Io uccido di Giorgio Faletti. In cinese? In cinese. Ecco, che cosa leggeranno soprattutto? Io credo soprattutto appunto romanzi e letteratura contemporanea di autori cinesi, credo soprattutto, perché soprattutto romanzi d'azione e d'amore. Io qui a scuola sono 13 anni che insegno in questa scuola. Cosa insegni? Però insegno italiano, lingua italiana. Quanti alunni complessivamente? Questa è la scuola elementare Enrico Toti, ha un 400 alunni. Ecco, quanto 400, è forte la presenza extracomunitaria? Sarà un 15-20%. 15-20%. Nella mia classe sono al 50%. 50%. Allora, la comunità è difficile, no? Entrare in rapporto con questi genitori, perché hanno problemi, non per mancanza di volontà, hanno problemi molto grandi, problemi di lavoro, per cui non riescono a venire a scuola, a comunicare con noi insegnanti, a integrarsi, no? A capire quello che c'è bisogno per i loro figli. D'altronde anche noi non riusciamo, non avendo mediatori culturali, non avendo una strutture di supporto, diciamo, riusciamo difficilmente, stiamo cercando in tutti i modi. Non parliamo molto, questa è una cultura che abbiamo ricevuto da migliaia di anni di Confucio. Dice, tu non devi parlare, se una parla tanto, dice, non va bene. Allora noi facciamo attenzione di cercare di non parlare tanto, di fare tanto. Allora questo, alla fine, quando una volta siamo usciti dalla Cina, diventa i nostri difetti. Però voglio dire una cosa pure, sono lavoratori. Guarda, io qui dietro ci sono tre ragazzi rumeni, e questi se li vedi da lavorare sembrano ruspe. Io ero uno di loro. Quando che lavoravo nell'edilizia ero peggio, che io sono cresciuto proprio nella fatica più brutta che possa esistere. Il Beppe di oggi al Pigneto si chiama Arafat, è un ventenne dalla pelle e dagli occhi scuri, nato nella periferia di Dacca. Secondo me, alla fine, se portano stranieri qua è un piacere che famo allo Stato italiano, secondo me. Perché siamo, io non è per dire che gli italiani non lavorano, però noi siamo venuti apposta per lavorare qua. Cioè, tu vuoi dire che pensi di essere più predisposto al lavoro dei tuoi coetanei italiani? Sì. Perché? È perché io ho vent'anni, io ho moltissimi ragazzi italiani, fanno 8 ore di lavoro, io invece sto tutta la giornata, 24-24 al lavoro. Mi divertirò, perché io ho questa mentalità, credo fino a 30-35 anni voglio fare i soldi, poi, lavoro poco e spendo tanto. Credo, io andrò a divertirmi in futuro, Ma questo prima, secondo te è proprio tipico di chi arriva? È una mentalità proprio mia, cioè questa è la mentalità mia. Lavorare questa età che posso, cioè ho più forza, e l'età che ne so, 35 anni diventa un po' più vecchietto, 40 sempre se ci arrivo, grazie. Sempre se ci arrivo. Mi fai fare le corna, parli dei 40 anni come capito? Se fossero 100. La vita non si sa mai, no? Bene, con questo abbiamo davvero concluso. La prossima settimana alcune considerazioni finali su questo lungo viaggio in Italia. Come di consueto un ringraziamento a Chiara Albicocco che ha realizzato con me questa puntata, a Carmelo Lauricella che l'ha curata in regia. Un saluto a tutti voi e un ottimo fine settimana.